Di quell'ignota Gente là dentro! Oh, ma dunque assai mutato. Angelotti, il console della spenta Repubblica Romana! Tutti por ora da caffè il Santa, disponete di me! Celatevi! È una donna gelosa! Un breve istante la rimando! Eccomi! Sono stremo di forza, più non reggo! In questo paniere del cibo e vino! Grazie! Resto! Thank you. sopra. Lo sai? Vado. Vado. La Maddalena ti piace? Un momento! Prezioso elogio! Ridi! Quegli occhi celestrini gialli vedi! Ce ne tanti pel mondo! Aspetta! Aspetta! Lottamenti! Brava! Vedi! Amato! Oh! Dove dunque angelotti? Non lo so! Ecco l'ultima volta! A me! Non lo so! Come tratti di corda! Eccola! Quanto la vesti faci non uccidi! Voglio che ve la notti voi testimoni il giudice m'aspetta. Davvero? Sì! Quanto fuori!